Ok, vogliamo pregare perché il Signore ci possa svegliare stamattina. Metti un braccio sulla persona che è vicino. Se non sei vicino qualcuno, spostati di sedia così che tu possa essere vicino qualcuno. Rimaniamo uniti come corpo. Signore, grazie perché tu ci svegli nella tua presenza e tu hai una parola per noi molto chiara per farci portare un buon frutto per la tua gloria. Signore, ti chiediamo insieme di essere un buon terreno in cui tu semini e che possiamo portare frutto, molto più frutto di quello che tu ci hai già dato. Nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Chi per una settimana intera ha confessato giornalmente io voglio essere un buon terreno? Noi eravamo così a casa, ogni giorno noi vogliamo essere un buon terreno. Spine, andate via, uccellino, ho avuto il cinguettio di quel bellissimo uccellino, carinissimo, nell'orecchio mi dava un fastidio incredibile. Perché? Perché io voglio portare più frutto. Chi con me? Noi vogliamo essere un buon terreno e sapete, la nostra Chiesa sta portando più frutto. La nostra Chiesa in pochissimo tempo sta correndo. Abbiamo Mottola, che è una bellissima cosa. Abbiamo la nuova rete con tutti i gruppi che sono iniziati. Questa settimana abbiamo visto qualche foto su Instagram, eccetera. Negli Upside Down stiamo per vivere una stagione nuova. Dobbiamo andare incontro ad una transizione. Vogliamo lasciare il passo ad una discendenza perché ci sia maggiore forza, maggiore vigore. Quindi questa è la stagione della nostra Chiesa per correre. E correre dove? Correre verso nuovi territori. Amen? Non so voi, ma noi lo stiamo sentendo tanto. Noi lo stiamo sentendo tanto. A un certo punto ci giriamo in casa e ci aspettiamo una stanza nuova. No, le stanze sono sempre quelle. Poi il pastore dice la stanza di Motto e ci giriamo. Ma dov'è la stanza di Motto? Però poi andiamo il martedì, no, scherzo. Ma vogliamo vivere tempi nuovi. Vuoi vivere un tempo nuovo? Io sì. Io sì, mamma mia, voglio vivere un tempo nuovo. Sapete, oggi, tutta questa settimana ho pregato per questo messaggio e io sono molto timorosa quando devo predicare, ma il Signore ha usato un metodo assurdo per confermare che fosse questa la parola di stamattina e ve la voglio far ascoltare. È della registrazione della mia cuginetta, la mia più piccola cuginetta che si chiama Aurora. Ha avuto un sogno da Dio. E l'ho avuto mentre era in ospedale, perché la settimana scorsa era in ospedale. Voi forse la vediamo tra le sedie qui la domenica sera ed è una bimba che prega. È una bimba che prega con potenza e riceve delle rivelazioni incredibili. E questo è l'audio che mia madre mi ha mandato, quindi la voce che sentirete è la voce dello Spirito Santo, che è guidata da mia madre, che ha guidato mia madre nel farvi sentire questa registrazione. Ci dovrebbe essere anche una foto che lei ha fatto, un disegno. Sentiamo. Beh, racconta. Tu hai fatto un sogno? Io e Gesù stavamo sulla barca, pure i discepoli. Stavano pure i discepoli sulla barca. E Gesù diceva, io non sono morto, sono vivo. Questo è il primo sogno. Invece il sogno che hai descritto nel disegno, qual è? Che l'hai fatto ieri? Qual è? Tu hai sognato Gesù mentre dormivi? Come? Racconta. Io ho sognato Gesù con un angelo. Te. C'ero pure io. Un tornillo e un robot. Perché dicevi? L'angelo che diceva? C'era. Alleluia. Alleluia, gloria. Gloria a Dio. E Gesù che diceva? Diceva, io sto davanti ai vostri occhi. E tu io hai detto? Grazie Gesù che tu ci guarisci da ogni male. Bellissimo. Amen. Ok. Amen. Dalla bocca dei bambini. Che bello. Che bello, questo era il sogno, lei era con un coniglio, un robot e un angelo. Io amo i sogni dei bambini, lei era sulla barca e Gesù gli ha detto, io sono vivo, non sono morto. E Gesù gli ha detto, io sto davanti a voi. E Gesù gli ha detto, io ti guarisco da ogni male. Questo è il nostro Dio, questo è il Dio in cui crediamo. Amen, Chiesa? E dovremmo andare nell'altro incontro per ricevere queste rivelazioni, no? Preghiamo sempre per gli incontri che ci sono di là. questi nostri bambini sono così speciali, hanno una relazione con Dio così intensa. Sapete, Dio è veramente con noi e stamattina vogliamo leggere una storia in cui, che forse conosciamo benissimo, ma vogliamo leggerla per capire quanto e fin dove Dio ha piacere nell'essere con noi. Perché Dio ha piacere nell'essere con noi quando insegniamo, quando preghiamo, quando liberiamo, così come è stato con i discepoli. Gesù ha avuto piacere ad essere con i discepoli mentre distribuivano il cibo a 10.000 persone, un cibo che lui aveva moltiplicato, e Gesù ha avuto cura di essere con i discepoli anche in mezzo alla tempesta. Vogliamo leggere il verso che tutti conosciamo in Matteo 14, dal verso 22, sarà sullo schermo anche, e dice così: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. È venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Intanto la barca, già a molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, intorno dalle 3 alle 6 di mattina circa, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Capita tutti i giorni, no? E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io! Non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Una di quelle richieste giornaliere, no? Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Che storia incredibile! Questa è una delle storie più interessanti della Bibbia ed è una storia che fa la storia, nel senso che è, come dire, un tassello messo. Prima di allora Gesù non aveva mai camminato sull'acqua. Gesù non aveva mai superato le leggi naturali. Gesù non si era mai ancora manifestato come l'Iddio a cui tutte le cose naturali sono sottomesse. Gesù non si era ancora manifestato come colui che calma la tempesta, che dice al vento di smettere, che porta una pace dappertutto. Sapete, Ravi Zacharias, un teologo, dice questo: Gesù è l'unico leader religioso a confronto della religione islamica, buddista, eccetera, eccetera, ad aver sconfitto ogni legge naturale. Lui ha camminato sulle acque, sconfiggendo quindi la legge della gravità. Ha calmato la tempesta, la natura è sottomessa, ma la manifestazione maggiore che abbiamo di Gesù, che è al di sopra della natura, è vincendo nella morte, cioè risorgendo. Amen? Questo è il nostro Dio, un Dio che prende la natura e gli è sottomessa. Il Dio che ha creato le cose naturali e quindi li sono sottomesse. Ma la storia è segnata anche con un'asticella nuova, perché un uomo ha camminato sulle acque. Non è incredibile? Avete mai provato? Lo so che tutti abbiamo fatto questa cosa al mare. A dire sì, quelli che ridono: Signore, dai, ti prego, fammi camminare, metti il piede. Chi non l'ha mai fatto? Se non l'hai mai fatto, non sei molto normale, ok? Quindi se non l'hai ancora fatto, per piacere, quando vai al mare, provaci, magari ti va bene come Pietro. Da quel momento in poi, e la storia è cambiata. Perché Gesù ha camminato sulle acque e Pietro ha camminato sulle acque. Pietro, veramente Pietro, quel discepolo testardo, ribelle, orgoglioso, che non era di esempio, non lo è stato in questo caso, nemmeno per i discepoli che erano nella barca con lui, e che è stato orgoglioso così tanto da dire: Dio, Gesù, se sei tu, veramente fammi camminare. Lui ha camminato sull'acqua. E questo ha dell'incredibile. La storia è cambiata da quel momento. Un'asticella nuova è stata messa. E quindi ora la sfida va a noi. Io avrei tanto voluto essere al posto di Pietro. È vero? Io in un paio di cose volevo proprio essere nei Vangeli, lì e quando Gesù è risorto, sinceramente, queste due parti. Io voglio essere come Pietro. E sai, Pietro ha conquistato un nuovo territorio, perché Gesù ha conquistato un nuovo territorio. Prima di allora nessuno l'aveva fatto. Gesù ci porta sempre a conquistare nuovi territori. E la Bibbia parla di questo episodio, stranamente, solo in un Vangelo. Cioè, in tutti i Vangeli c'è la storia di Gesù che calma la tempesta e che arriva sulle acque, ma solo Matteo parla di Pietro. Sapete secondo me perché, sinceramente? Perché secondo me Pietro ha fatto così una brutta figura che ha chiesto a Marco, a Luca, a Giovanni, beh, per piacere, dai, non lo scrivere, per piacere, dai, non mi far fare sta figura con tutto il mondo. No, scherzo, però me lo immagino, Pietro poteva essere capace di dire, dai, ti pago. No, scherzo, Matteo ha scritto molto su Pietro. Matteo ha, infatti, tutto il carattere di Pietro, noi lo vediamo in particolar modo dal Vangelo di Matteo. È come se Matteo avesse voluto intenzionalmente scrivere molto di più su Pietro per farci molto di più immedesimare con un uomo strano, difettato, debole, orgoglioso, che però è riuscito ad essere, come Gesù ha detto, colui che ha iniziato la Chiesa primitiva. Colui che ha portato avanti un compito straordinario, colui che, come ha detto Gesù, possedeva le chiavi. E questo è Pietro. E quindi lo troviamo con una personalità impulsiva, immatura, anche un po' vulnerabile. E lo troviamo lì, scritto. E sapete, prendiamo un po' di cose da questa storia. I discepoli avevano appena distribuito il cibo a 10.000 persone. E Gesù li costringe a mettersi sulla barca. In realtà i discepoli erano già molto stanchi. Vi ricordate la storia della moltiplicazione? Che Gesù dice, beh dai, riposatevi un po'. E poi qualcuno dice, sì, ma come facciamo con questa folla? Beh, distribuite voi cibo, no? Quindi abbiamo i discepoli stremati già prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi hanno distribuito cibo a 10.000 persone. Chi ha mai fatto il cameriere sa che già servire cibo a 50 persone è estenuante, no? Abbiamo Vito e Mariella qui, io ho lavorato con loro, ed è stancante, ma a 10.000 persone potrebbe essere proprio sfiancante da morire. E Gesù che fa? A questi discepoli già stremati gli dice, mettetevi sulla barca e aspettatemi dall'altra parte. Gesù se ne va sul monte e a un certo punto, mentre erano nella barca, erano sul mare, capiamo bene, Chiesa, erano esattamente dove Gesù gli aveva chiesto di essere. Erano esattamente dove Gesù li aveva mandati e lì è arrivato il vento contrario. Lì è arrivata la tempesta. Lì è arrivata una situazione ingestibile. Come mai? Come mai se Gesù ci manda in un posto, noi abbiamo un'aspettativa strana? Quando vai nel posto in cui il Signore ti ha mandato, quando fai esattamente quello che Dio vuole, molti di noi combattiamo con, sì, lo faccio, per ubbidienza. E già per arrivare a quell'ubbidienza forse hai vissuto un sacco di combattimento. Siete con me? Forse per andare nel territorio nuovo, già lì sei già con le forze a meno di zero. Quello che ti aspetti, quindi, che cos'è? Arrivare nel posto in cui Dio ti ha mandato e trovare una foto del genere. Cioè il mare così, vediamola un po'. Io mi aspetto una cosa del genere. Se so che Gesù mi ha mandato, questa è la foto di qualche giorno fa a Mola, il mare era talmente piatto da confondersi con il cielo. Vedete, c'è ancora un'altra foto. Vivo in un posto fantastico. C'è quella barca lì piccola, è così calmo, così tranquillo, tutti ci aspettiamo questo. Però in realtà era di sera, quindi tutti ci aspettavamo questo, vediamo un po'. Oh, luna piena, chi ha mai fatto un bagno di notte? Questo è lo scenario, idea. Io dico queste cose per sentirmi più giovane, no? Chi ha mai fatto il bagno di notte? Perché se sei giovane fai il bagno di notte, quindi questo è come Leo dice, per sentirci più giovani usiamo gli emoticon e il bagno di notte, quindi se non fai il bagno di notte non sei giovane. Nino, hai fatto il bagno di notte? Sicuramente. L'altro ieri tu, sicuramente. Questo è quello che noi spereremmo di avere sapendo bene che Gesù ci sta mandando. In realtà quello che Pietro si è trovato davanti, quello che i discepoli si sono trovati davanti, era questo. Ancora? Ancora? Oh! Chi avrebbe il coraggio di dire in questo tipo di mare, Gesù, fammi camminare sull'acqua? È facile dirlo quando c'è una tavola davanti a te. C'è ancora un'altra, Leonardo? Sì o no? Oh! Chi di noi sarebbe così folle da immettere i nostri piedi su questo mare? E l'aspettativa è strana, grazie Leonardo, e l'aspettativa è strana perché quando sei nel posto in cui Dio ti manda, noi ci aspettiamo di trovare il nostro meglio. E il nostro meglio è un mare calmo, tranquillo, dove non c'è tempesta. Il meglio che invece veramente accade è una grossa tempesta. E siamo lì a dire, allora Signore, ma era qui che mi volevi? Ma Signore, ma era veramente questo? No, perché forse ho capito male, perché forse non era esattamente questo il posto in cui tu mi volevi, ma oppure ce la prendiamo con Dio, ma Signore, ma tu mi hai mandato qui e mo pure il resto. E ora pure questa gran tempesta, io avrei voluto tranquillamente surfare sulle onde con te, e invece c'è una tempesta contro di me, ma Signore ho capito bene, entriamo in queste crisi, spirituali, perché? Perché viviamo un trauma dalle nostre aspettative alle aspettative che invece Dio ha. E sai una cosa? Quando Dio ci chiede di andare in un nuovo territorio è perché Lui si vuole mostrare nuovo con noi. Quando noi entriamo in un nuovo territorio, Lui ha una parte di sé nuova per noi. E la parte di sé nuova per questi discepoli e per tutti quanti noi, qual è? Che Gesù cammina sulle acque. Che Lui è il Dio della tempesta. E che Lui è talmente potente da far camminare anche un uomo sulle acque. E questa è la parte che nessuno di noi vorrebbe mai vedere. Perché? Perché è troppo difficile. Perché le aspettative sono il nostro meglio. Ma in realtà il meglio che Dio ha è d'essere glorificato di più. E quando conosciamo una parte nuova di Dio, noi glorifichiamo Dio diversamente. Fino a quel momento i discepoli potevano glorificare Dio per il Dio che moltiplica il pane e i pesci, ma da quel momento in poi si poteva glorificare Cristo Gesù perché? Perché Lui è il Dio della tempesta. Amen? Quindi quando sei nel luogo in cui Dio ti manda, sposta la tua attenzione dalle tue aspettative. Spostiamo l'attenzione dalle mie aspettative, dalle nostre aspettative. Mettiamo la nostra attenzione, il nostro focus sull'aspettativa che Dio ha per noi. E la sua aspettativa è mostrarsi nuovo, è mostrarsi ancora più potente, è ricevere ancora più gloria. Amen, Chiesa? Ti piace? E non è solamente questa storia, pensa a tutte le storie straordinarie della Bibbia. A un certo punto Dio chiede al popolo di Israele di uscire dall'Egitto. E cosa si trova davanti? Il mare. Il Mar Rosso, ma com'è? Non era questo il nuovo territorio che ci dovevi dare? Sì, sì. E come si fa? Lo fa Lui. Lui apre il Mar Rosso. Ancora con Gedeone. C'è un enorme esercito contro di me. Abbiamo 1000 persone. No, sono troppe. Abbiamo 500 persone. No, sono troppe. Abbiamo 300 persone. Sì, quelle meno abili alla guerra. Vai in guerra. Non ti preoccupare, non fanno niente. Faccio tutto io. Questo è il nostro Dio, ancora con Giosuè. E dai, siamo pronti a stare nel nuovo territorio e che ci troviamo davanti il Giordano. Ma allora scherziamo, Signore, è questo il posto in cui tu mi hai mandato? Sì, perché lo voglio aprire ancora. La terra promessa. Scorre latte e miele, il nostro pastore ha predicato un messaggio incredibile. Alcuni hanno detto, sì, si può fare. Perché l'hanno detto? Perché hanno pensato che il Dio che ci ha liberato dalla mano dell'Egitto, il Dio che ha aperto il Mar Rosso, il Dio che ha aperto il Giordano può fare anche questo. Ci sono i giganti? Facciamo così. Voi andate intorno alle mura e fate solo un gran chiasso, me la vedo io. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Lui si manifesta fedele, fedele, fedele, fedele, fedele, sempre di più. Il nuovo territorio non è solamente dove noi andiamo per la prima volta, è anche come vediamo un Dio per la prima volta. Quindi non scoraggiarti se Dio ti ha chiesto di andare ad un territorio e c'è tempesta, perché anche in quella tempesta Lui si mostrerà fedele, amen? Lui si mostra fedele. Cosa fa Gesù? Gesù ha scelto il meglio per i discepoli. Gesù ha scelto il meglio per noi e nella sua piena bontà raggiunge i discepoli. e gli va incontro. Nella sua bontà non lascia i discepoli da solo, ma lui ha cura di te. Lui ha cura di te, lui non ti lascia solo nella tempesta. Lui ha cura di venire davanti a te, di venirti incontro. E nella sua potenza lui calma la tempesta. Incredibile il nostro Dio, amen? Siamo svegli, Chiesa? Vogliamo vivere questa potenza e questa bontà? Chi vuole vivere questa potenza e questa bontà? Io sì, voglio vivere una potenza di Dio mai visto, voglio vivere una bontà di Dio mai vista. E nella sua potenza arriverà il vento contrario, arriverà la tempesta, ma oh, io non sono fatta per il deserto. Tu non sei fatto per il deserto. E molto spesso noi pensiamo era meglio stare in Egitto, era meglio rimanere nel deserto. Questo hanno detto Numeri 13, fossimo noi morti nel deserto. Fossimo noi morti nel deserto. Oh Chiesa, tu non sei fatto per stare nel deserto. Per quanto il deserto sia diventato casa nostra, ma noi non siamo fatti per il deserto. Per quanto ci siamo costruiti la bella situazione per stare comodi, noi non siamo fatti per il deserto. Amen? Dillo alla persona vicino a te, tu non sei fatto per il deserto. Tu sei fatto per la terra promessa. Noi non siamo fatti per il deserto. Oh, io non sono fatta per il deserto. Io sono fatta per la terra promessa che Dio ha creato per me. Amen? Ci credi? Puoi mettere un like? Puoi mettere un mi piace? Mio nipote dice ok. Ok, io sono fatta per la terra promessa. Amen? E nella terra promessa, dalla storia vediamo che Gesù arriva nella tempesta. Gesù arriva nella tempesta e quello che dice non... Ragazzi, non sono un fantasma, ragazzi, ma che stupidi che siete, ma non avete visto, ma come mai? Ma non sapete che non esistono i fantasmi? Non esistono i fantasmi, ok? Quindi, no, no, Gesù ha detto due paroline, le due paroline che hanno cambiato tutta la circostanza. Coraggio, ci sono io. Coraggio, ci sono io. E non ha detto coraggio, tranquilli, raga, smettetela di essere così impauriti. No, no, ha detto tranquilli, ci sono io. E questo è il nostro Dio. Noi possiamo stare tranquilli perché c'è Lui, la parola era ego eimi, che è la stessa parola che troviamo in Esodo 3, quando Dio si manifesta nel pruno ardente e Dio dice io sono, coraggio, sono io sono, il nostro Dio, Lui è con noi, coraggio, coraggio, Lui è con noi, non smetterò mai di dirlo. Questa è una di quelle cose che devi dirti la mattina appena sveglio. Coraggio, Dio è con te. Vai allo specchio, al posto di guardare i brufoli, i capelli sporchi e tutto quello che non va, di coraggio, Dio è con te. E vedrai che ti guarderai anche meglio. Ti piacerà quello che vedrai, amen? Ti piacerà quello che vedrai accanto. Perché? Perché sai che il tuo Dio è anche con l'uomo che sta accanto a te. Il tuo Dio è anche il Dio che sta con i tuoi figli, con la tua famiglia, con i tuoi colleghi di lavoro, con i tuoi amici. Glielo puoi dire, coraggio, Dio è con te. Coraggio, Dio è con te. Se c'è una cosa che veramente tutti possono capire, coraggio, Dio è con te. Lo puoi dire al tuo amico che è andato male a scuola. Lo puoi dire alla situazione difficile che qualcuno vicino a te sta vivendo. Coraggio, Dio è con te. E sai, non dici mai una bugia. Perché? Perché Dio è con noi. Amen? Dio è con noi. Ma veniamo a Pietro. Pietro, simpaticone. Che bello Pietro. Io l'ho detto così, l'ho scritto così. Pazzia, fede e paura. Questo è Pietro. Pazzia, fede e paura. Molta pazzia, molta pazzia. Chi è quello che vede camminare Gesù sulle acque nel bel mezzo della tempesta? Dice... Posso fare la stessa cosa tua? Ehi, Gesù, se sei veramente tu, com'è che dice? Dice così. Gesù, se sei tu, comandami di venire adesso da te. Ma com'è stato veloce il suo pensiero? Ci pensi? Non ha assolutamente riflettuto. Niente, c'è metabolizzazione, cioè io avrei voluto 3-4 giorni per capire, no Gesù che sta camminando sulle acque, non è un fantasma, calma la tempesta, ok che sta succedendo, no, Gesù istantaneamente dice, Gesù se sei tu fammi, dai, facciamo questa cosa semplice insieme, fammi venire con te sull'acqua, ma che pazzo pensare una cosa che non si era mai fatta di farla per la prima volta. Questa è pazzia. Questa è la pazzia che Dio ama. Questa è la pazzia che Gesù ama, fare le cose per la prima volta, fare le cose che non si sono mai fatte, non impaurirsi che non l'hai ancora visto prima, sai, un nuovo territorio, è così, perché è nuovo, forse nessuno lo avrà fatto ancora, dovrai andare in piena fedeltà, in piena sicurezza che quello che stai facendo è quello a cui Dio ti sta chiamando, amen? Pazzo, pazzo, completamente pazzo, questa è una fede che osa. Questo è un pazzo che osa e ci ha messo fede, perché la sua fede è stata su Gesù. Se sei tu, semplice, ha detto se è Gesù, ce la posso fare. Se è lui, sicuro ce la faccio. Ed è una fede che ha osato, ed è una fede che ha osato. Sai, la fede con Gesù non è mai eccessiva. Non puoi mai rischiare di eccedere nella fede. Se c'è una cosa in cui possiamo essere eccessivi è la fede. E la fede di Pietro è stata eccessiva, è stata pazza, è stata esagerata. Molti vedono in questa domanda l'orgoglio di un uomo che voleva sempre primeggiare. Ed è vero, no? Lui doveva fare sempre il di più, è vero, no? Lo sappiamo sempre. Lui è quello che fa sempre il di più. E vediamo sempre un'immaturità nel suo carattere. Vediamo forse una vulnerabilità. Forse è una fede che è fastidiosa. Perché, ma stati zitto un po', ma perché devi fare il di più? No, una di quelle persone che dice, ma tranquillo, cioè, ok, mo viene Gesù, calma tutto, puoi stare sereno. No, no, lui è eccessivo, fastidioso, pazzo, troppo. No, è uno di quelli che, se io fossi stata nella barca con lui, l'avrei gettato dalla barca. Cioè, ma stai zitto, Gesù. Gesù ama questo tipo di fede. Gesù ama questa fede folle. E sapete cosa fa Gesù? Gesù sta lì. E come un buon padre fa, sapendo che suo figlio cadrà se lo lascia andare, gli fa provare una cosa nuova. Gliela fa provare. Non gli dice, zitto, tranquillo, stai con gli altri. No, vieni, vieni, vieni, che bello. Che bello, Gesù ha visto in Pietro una fede per cose più grandi. E la grandezza di Pietro è concisa con una piccola fede. Perché Gesù gli ha detto vieni e Pietro ha camminato sulle acque. Oh, chiesa, Pietro ha camminato sulle acque. E possiamo dire tutti che ha affondato, ma ragazzi, Pietro ha camminato sulle acque. È inutile che poi vogliamo dire che ha affondato. Io lo dico a me stessa, Pietro ha camminato sulle acque, non è incredibile che un uomo abbia... Io non ho camminato sulle acque. Tu hai camminato sulle acque? Non ancora, questa è la risposta. Non ancora, ci voglio provare. Ma Pietro ha camminato sulle acque e questo ha dell'assurdo. E Pietro ha camminato sulle acque nel bel mezzo della tempesta, perché Gesù non calma la tempesta quando lui arriva alla barca. Quando Gesù entra sulla barca, dopo che Pietro stava per affondare, allora lui placa la tempesta. Quindi Pietro in una tempesta si è sfidato ancora di più. Ha voluto vedere ancora di più la gloria di Dio. Ha voluto meravigliarsi ancora di più e ha voluto glorificare Dio ancora di più. Questo è Pietro. E Pietro cosa ha fatto? Prima di camminare sull'acqua ha lasciato la barca. Di tutta questa storia, forse questa per me è la parte più difficile, perché io credo che Dio ci sta mettendo in un nuovo territorio. Ed è bello entrare in un nuovo territorio. Stai facendo una cosa nuova? Stai facendo una cosa nuova? Sei in un nuovo territorio? È bello. Ma è lasciare la barca che è la parte più difficile. Sai, è non sapere come andrà e lanciarti. Quanto è difficile lasciare quello che abbiamo sotto i piedi? E quello che abbiamo sotto i piedi è stabile, è sicuro. Ed è l'unico modo per rimanere a galla. Perché è una barca ed è costruita per questo. Ma quella stessa barca molto spesso non ci permette di vedere cose soprannaturali. E quello che Dio ci chiede è di lasciare la barca. Questa chiesa è la parte più difficile. La settimana scorsa il pastore ha parlato di quelle che possono essere le spine. Ha parlato di tutti questi piaceri della vita, degli inganni, dell'andare dietro. A motivazioni che complicano moltissimo la nostra fede. E quella può diventare la nostra barca. Sai, la nostra carriera, la nostra casa, la nostra famiglia stessa, la nostra chiesa. Forse lo stare qui, è lo stare troppo bene in questa barca, non ti permette di andare fuori a predicare il Vangelo nelle tenebre. Perché la barca è il posto sicuro in cui stare. Ma Dio ci chiede di uscire, di lasciare questi territori, di lasciare i territori vecchi per abbracciarne di nuovi. Che cosa dobbiamo lasciare? Qual è la nostra barca? Qual è il territorio vecchio che devi smettere di avere sotto i piedi per andare in territori nuovi? Io lo sto chiedendo a me, non lo sto chiedendo a voi, ma chiediamocelo insieme. Quali sono le cose vecchie, sicure, stabili, che dobbiamo lasciare per vedere delle cose nuove, per conquistare nuove cose? La Chiesa sta andando in nuovi territori. Sapete, lasciare le cose vecchie è la parte più difficile, perché c'è l'entusiasmo delle cose nuove, ma anche la stabilità delle cose vecchie. Ed è qui che ci deve essere la nostra fede. Ed è qui che dobbiamo dire, Signore, se sei tu, chiedimi di uscire. Signore, se sei tu, allora io cammino. Signore, se sei tu, non mi importa quello che sto lasciando. Non mi importa il territorio sicuro che ho sotto i piedi. Ma io voglio correre. Io voglio correre verso nuovi territori. Qual è? Qual è la tua barca? Qual è la tua barca? Qual è la tua barca stamattina? Io so che lo Spirito Santo sta gridando ai nostri cuori e forse lo sta individuando. Forse dovrai tornare a casa e pregare perché lo Spirito Santo ti dica qual è la tua barca. Ma ti dico semplicemente, scegli di lasciarla. Scegli di uscire da quella barca e di mettere il piede sull'acqua. Metti il piede sull'acqua. Lascia quella barca. Amen. Come si conclude la storia? Gesù dice a Pietro, poca fede, uomo di poca fede. Qui gli ha dato un paio di ceffoni, no? Uomo di poca fede, è questa parola che è oligopistos, è una parola che Matteo usa spesso, in altre 3 volte, almeno 4 volte forse, nel Vangelo. E ogni volta è poca fede o uomo che non ha fede, ed è sempre riferita ai discepoli. Gesù ha detto ai discepoli, uomini di poca fede, com'è che non hai creduto? E c'è scritto nel verso, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Pietro è uscito dalla barca e ha camminato verso Gesù. Non ha guardato al mare, non ha guardato al vento. Per camminare sull'acqua ha guardato a Gesù. E sai invece cosa dice la parola? Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Quando Pietro spostò il suo sguardo da Gesù al vento, allora cominciò ad affondare. Fino a quando aveva gli occhi focalizzati su Cristo, lui camminava sulle acque. Quando ha cominciato a guardare il vento, a quello che gli era contrario, a quello che gli era difficile, alle cose complicate, allora cominciò ad affondare. In cosa stai mettendo la tua fede? In quello che hai intorno o su Cristo? In quello che hai intorno o su Cristo? E sai Gesù cosa mi ha detto oggi? Signore, ma allora che facciamo? Camminiamo o no? No, lui mi ha detto che facciamo? Camminiamo o no? Ho detto ok. Ha detto ma è difficile, Gesù è difficile, io voglio, ma è difficile. E Gesù sai cosa mi ha detto? È solo vento, è solo vento, è solo vento. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? È solo vento. Quando guardi il vento, quando guardi la tempesta, anche quella fede minima, ma che ti serve per grandi miracoli, ti viene rubata. Quando sposti lo sguardo, quando spostiamo lo sguardo da Cristo alle cose che ci accadono, allora quella fede ci viene rubata. Ecco che oggi è il tempo di continuare a mettere il nostro sguardo su Cristo. Forse lo devi fare per la prima volta, forse in questa circostanza lo devi fare con radicalità e con fiducia, forse con pazzia, ma ti devi fidare e devi fidarti di Cristo Gesù. Lui ti vuole far camminare sulle acque. Lui ti vuole far andare con Lui. Lui ti vuole far vivere la potenza che c'è totalmente nel suo nome, solo non guardare le circostanze. Sposta il tuo sguardo dal vento, guarda a Cristo. Guarda a Cristo. Guarda a Cristo, e voglio dirlo alla vita di molte persone qui, è solo vento. È solo vento. È solo vento. E sai quando ci accorgiamo che è solo vento? Quando l'abbiamo superato. E dici, ma veramente era così facile? È solo vento. Ma quando stiamo dentro non ce ne accorgiamo, crediamo sia la tempesta della nostra vita. Ma quando andiamo e guardiamo a Cristo ci accorgiamo che è solo vento. Quante situazioni Satana sta usando per distogliere lo sguardo da Lui. E Dio oggi ci ricorda, è solo vento. È solo vento. Amen. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. E se sei qui oggi e stai affrontando un nuovo territorio in cui c'è vento, io prego che oggi il Signore possa ricordarci che Lui ha intenzioni molto più grandi, molto più belle, molto più potenti. Lui ha intenzione di farci camminare sulle acque. Lui ha intenzione di placare il vento nel tuo matrimonio. Lui ha intenzione di calmare la tempesta nel tuo lavoro. Lui ha intenzione di mettere a zittire le onde nella tua testa e tutti quei pensieri che vanno oltre Lui. E Lui, è Lui, Lui fa tacere la tempesta. Lui fa calmare il vento, amen? Vogliamo pregare. E se hai una di queste aree in cui sai che il Dio deve calmare il vento, ti chiedo di alzare la tua mano, vogliamo pregare insieme. Vogliamo pregare con fede, anche piccola ma pazza. Preghiamo insieme per quello che stiamo affrontando. Signore, grazie perché Tu sei lì e Tu non sei lontano. Tu non sei lontano, anche se eri sul monte, Tu avevi i Tuoi occhi sui discepoli e Tu hai sempre chiara la nostra situazione. Anche quando noi non ce l'abbiamo chiara, Tu ce l'hai chiara. Io Ti voglio pregare, Signore Gesù, che la nostra fede in quello che stiamo affrontando possa essere una fede pazza, possa essere una fede che guarda a Te e che non sposta gli occhi da Te. Signore, grazie perché Tu sgridi il vento. Tu sgridi la tempesta, Tu metti a tacere le onde, Tu metti a tacere il vento. Signore, perché Tu ci fai camminare sulle acque e noi vogliamo glorificare il Tuo nome e sappiamo, Signore, per fede che noi usciremo da quello che stiamo vivendo molto più forti, molto più sicuri, molto più pazzi per darti una maggiore gloria come non abbiamo fatto fino ad ora, perché Ti conosceremo di più, daremo più gloria al Tuo nome, potremo testimoniare ancora di più a questo mondo che Tu sei il Dio vivo che ci guarda, che è con noi, il Dio Signore che ha tutto sotto controllo. Nel Tuo nome Gesù prego questo.